Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8 e 18 minuti, caro Oscar Giannino. Eccoci qua in questo martedì 23 di febbraio. Dei santi importanti oggi, dei santi molto importanti. Per esempio Santa Milburga. Ti è mai capitato? San Villigiso. Ma scusa, uno che si chiami Villigiso. Ma almeno San Sereno da Sirmione. San Sereno. E poi San Policarpo. San Policarpo. Vabbè, un po' più grande umano. Opera di fino all'Ottocento italiano della letteratura. Policarpo, ufficiale di scrittura di Vittorio Bersetti, vabbè, ma queste sono le mie cose di piemontese. San Milone, uh-huh. E poi pensa, e anche però San Renzo. San Renzo, quasi Renzi, esatto. Questo l'ho tenuto per ultimo San apposta. Renzo, sono due anni del governo Renzi. Sono per due anni del governo Renzi, e la stampa estera gli ha riso in faccia ieri. Gli ha riso in Oscar faccia. È contento, ma insomma, ridono. No, io sottolineo il fatto del Consiglio italiano, eh sì, ma qua capisci che quando uno dice adesso io inaugurerò la Salerno Reggio. Persino i compunti col poetesico. È ovvio. Vabbè, diciamo, noi vogliamo un po', visto che danno tutti i voti in decimali, cioè da 0 a 10, non date i voti, non so, da 0 a 100, da 0 a 10, come alle scuole elementari. Che voto dareste al governo Renzi? Però motivatecelo, cioè dite, diamo 7, diamo 5, diamo 10, diamo 3, però diteci perché. 7 per in condotta. 7 in condotta. Però 10 in religione. 10 in religione. Chiamateci all'800 24 00 24. Cosa vi è piaciuto di questo governo Renzi? Cosa non vi è piaciuto, visto che lo stesso Renzi su Facebook ha lanciato un contest. Ha lanciato un contest. Ora italiani... Qual è la riforma da fare? Beh, non è che la nostra risposta è basta, basta. No, non si però, mai. Visto che dici che ridono, senti qua la questione della Salerno-Reggio Calabria. So che non ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria. Tenetevi forti. Ridono, ridono sui denti. Sì, la stampa estera ha detto. Ma adesso addirittura su. Vabbè, però ha detto: oh, 22 dicembre non è tra. Beh, no, è tra un po'. No, primo è tra un po'. Sono 10 mesi. Secondo, però segnatevelo sul calendario. È la 17ª annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio italiano di inaugurazione della Salerno-Reggio. È la 17ª sì, però vedi, volta. Se la politica fosse il regno anche della coerenza, cosa ma che figurati, non è, ovvio. Il 22 dicembre uno va dal, no, come si chiama, il fact checking, uno va dal presidente del Consiglio, ma e dice, sai fatto meglio di me che con Renzi fatto? Non funziona con così tutti, non con funziona tutti. Così Renzi riesce ad eliminarlo il fatto. È come sui Rolex, ne parlano mai solo il Fatto Quotidiano, hanno negato l'accesso ai documenti, ma non si è scandalizzato Oscar, nessuno su questo. Io come, dico su questo, io dico purtroppo negli ultimi non 20, negli ultimi dal 1946 è così, non esiste, è così il fact-checking. Fact-checking ha inchiodato Berlusconi e invece è come sapone per Renzi. Ieri annunciano questa campagna in tutta Italia con i cartelloni che vengono annunciati, sì, eccetera, pagati eccetera. Da noi. Ecco, però ci dicono noi siamo trasparenti e non siamo tenuti a dirvi quanto, però siccome pagano i gruppi parlamentari, pagano i gruppi parlamentari che sono soldi nostri, poi parliamoci chiaro, e quindi la risposta può essere non siamo tenuti a dirvi quanto, eppure questa è la risposta che viene data, però oggi non la vedi campeggiare. Comunque io sono felice perché oggi c'è l'incontro politico vero di svolta della politica italiana con i veri padroni della linea sulle questioni di coscienza, perché oggi l'unico giornale italiano a notare questo incontro fondamentale del governo Renzi è il Messaggero, perché oggi c'è l'incontro tra Renzi il segretario di Stato Vaticano Parolin. Eccoli, mi pare che questa sia. No, eccoli, no, dicevo, ma... pensavo, mi è sfuggito questo incontro. Ma no, l'incontro, scusami, hai visto che com'è finita sulle unioni civili, almeno andiamo a chiedere cosa possiamo dire. Senti cosa dice Massimo D'Alema alla domanda sui 2 anni del governo Renzi. Beh, però diciamo, Massimo D'Alema non è proprio il leader della simpatia mondiale, no, planetaria. Non lo è. Sentilo qua. I 2 anni di governo Renzi. No, noi ci occupiamo del pontificato nei quasi gli oltre due anni di pontificato di Francesco. Invece il supermarket nella dichiarazione. Cioè, piuttosto parlo del Papa, piuttosto parlo del passiamo Papa. Qui a occuparci del pontificato, così, capito, così D'Alema, non... Allora, ho letto su Corriere che c'è, a proposito di privilegi, a proposito di privilegi, la sentenza, sì, di Cassazione, che ho visto commentata sul Corriere della Sera, da Flavio Aver, collega del Corriere della Sera, perché un dipendente delle Poste vi si vede riconosciuto in Cassazione, addirittura, pensate alla causidicità degli italiani, il diritto a non lavorare la domenica. E perché? È perché è cattolico. Allora, a me questa cosa, le Poste lavorano di domenica, però. Pensa, gli avevo per una volta le Poste, gli avevo organizzato un turno organizzativo in cui si lavorava la domenica. Questa è la vera notizia, secondo me, è questa, che alle Poste si lavora di domenica. credo che tu abbia ragione. Più che altro. E invece no, cioè, arrivano in Cassazione per vedersi riconosciuto questo diritto, e la Cassazione gli ha dato ragione. Allora, la mia domanda è, lo dico con rispetto questa volta, cari amici, ricordati cattolici, di santificare le feste. Allora, ma scusate, ma perché è incompatibile, secondo voi, credenti, santificare le feste con l'idea di poter lavorare la domenica? Dovremmo chiudere tutti i supermercati, peraltro, tutti, ma i cinema, super... tutti gli aeroporti, le stazioni, servizi di emergenza, gli ospedali. È un servizio pubblico, le Poste, no? Adesso, naturalmente, non ha lo stesso impatto di urgenza dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia. Però voglio dire, questa storia, no, è domenica, io credo non lavoro. Wow, francamente un po' sì, però vedi, arrivano e fioccano le telefonate, caro Oscar, con i voti dei nostri ascoltatori. E c'è chi ci scrive anche, io me lo sono segnato, cioè il 22 dicembre sul calendario. Gabriele Salerno Reggio, no vabbè, Gabriele è uno preciso, il 22 dicembre. Ha ragione, diciamo, però audio manent, questo l'ha detto la verità, è che credono tutti che siamo presi dal Natale, ce lo dimentichiamo. Vabbè comunque ci chiama Federico da Pordenone. Buongiorno Federico. Buongiorno, ciao. Il voto? Io darei a Renzi due voti distinti. Allora, un 10 nei propositi, perché i propositi e gli annunci sono sempre stati il suo forte. Un bel 4 meno invece nella pratica, perché tante promesse, tante buoni propositi, però dopo alla fine, debito pubblico non vinto. Io vivo nel nord-est, in Friuli, dove la disoccupazione sta aumentando. C'è una statistica che ha detto anche che il numero dei residenti in Friuli in 10 anni è calato di 60.000, nonostante gli extracomunitari, sì. Per cui diciamo così... Per la verità, guardi, Renzi in una delle slide ha detto, cos'è, abbiamo preso la disoccupazione giovanile, credo al 44, adesso è il 39, è uno dei punti che invece vedrà nei manifesti di Pordenone. Commento, a spese nostre. Osteria, capisci? 40 al 39%. Vabbè, dice, questo è uno dei punti, è diminuita e quindi... Sì. Però Federico, lei in che cosa secondo lei ha fallito, visto che le ha dato 4 meno? Nel proposito non mantenuto, economica. La politica economica. Secondo me è la politica economica, perché sicuramente non si può dire che di ripresa ce n'è stata. E io, guardando sinceramente solo al nord-est, vedo che qua le industrie continuano a chiudere e non vedo questi grossi segnali. Lei è un gufo. Lo so, vabbè, no, un gufetto lì a casa, in pasta al comodino. Un gufetto. Grazie Federico. Andrei a Roma, da Paolo, città terremotata di Ixit Bertolaso. Roma. Paolo è così? No. Autodichiarandosi all'altezza. Paolo, buongiorno. Sì. Buongiorno a voi, sì, Roma è terremotata, ma lo è ormai da tanto tempo che ci siamo abituati, purtroppo, questa è la verità. Per quanto riguarda Renzi, io darei un 8, sinceramente, basandosi un po' sull'esperienza personale. Guardi, io sono un piccolo imprenditore, ho dovuto creare un'azienda perché dove lavoravo prima, l'azienda dove lavoravo prima aveva dei grossi problemi, e quindi mi ritrovai un po' fuori e ho creato una piccola azienda, e grazie agli incentivi, adesso si può dire quello che si può dire, che prima o poi finiranno, quello, sì, che si vuole, però quest'anno soprattutto abbiamo assunto Jobs Act, qualcuno l'Istat ha fatto una differenza fra la finanziaria, dove erano previsti diciamo gli incentivi, il job tax, che sarebbe un'altra cosa, ma sempre il governo l'ha fatto. Ma visto che lei è un piccolo imprenditore, Paolo, le chiedo questo, e lei ha parlato degli incentivi, non è che tra qualche tempo, glielo chiedo, visto che lei è più del settore, ci saranno i primi licenziati da Jobs Act? Guardi, le dico questo, non si può escludere nulla perché in tutte le situazioni ci sono sempre i limiti, quindi questo è possibile, però le dico questo, quando un imprenditore investe su una persona, la assume, cerca di insegnargli le cose principali, poi noi facciamo un lavoro anche abbastanza di intellettuale perché facciamo programmazione software, quindi diciamo così, avere persone preparate, poterle in qualche maniera avviare nella realtà del mondo aziendale, poi doverle mandare a casa, non solo è una sconfitta personale, c'è un danno per l'azienda, anche in teoria è un danno, ma è un danno per l'azienda, adesso che, allora, che ci chiaro, sia qualche... però magari l'azienda non è, e non glielo auguro, non va benissimo, deve cominciare a tagliare. Senso, può succedere, ecco, non lo dico che uno lo faccia per goduria di lasciare a casa le persone, però insomma, anche perché io ricordo che per quanto adesso diminuito il 40% resta la possibilità per motivi economici di far decadere, di recedere un contratto, ne prendi un altro e ci prendi i contributi. Non so se è chiaro che c'è questa. Sì, c'è il rischio di come dire, non sostituzione. Passò, no, però Paolo giustamente fa, dice: se formo una persona, sì, è ma un in presenza umano, di incentivi che non sono vale su occupazione addizionale, vale come proponemmo 3 anni fa io, Luca Ricolfi e gli altri, ma lordo tutti. Tu puoi mandare via, prendere un altro e riprendi i contributi. Non so se è da chiaro. Da formare, cioè questo è il limite. Un altro da formare, magari. Tanto magari riprende mandi... i contributi, sì. Non è proprio così secondario. Allora, non è un caso che Banca d'Italia 2 giorni fa ha stimato che l'effetto del Job Act sui famosi 745.000 contratti a tutele crescenti, di cui i 546.000 sono trasformazioni, però l'effetto del Job Act è l'1%, il 99% dice Banca Italia sono i contributi. Non ce lo dimentichiamo. Sì, mi viene da pensare che un'azienda però che dovesse ricorrere a questo sistema, cioè lascia a casa una persona magari formata pur di prendere i contributi, e beh, che non vada bene, poi non, l'azienda non mi do anche una risposta, no? A questa conclusione Banca d'Italia per il brutale contributo ci arriva dopo un esame dei flussi temporali, per cui il più di queste tre di queste assunzioni è nel mese di gennaio dell'anno, all'inizio della grande decontribuzione, e a dicembre per quando stanno finendo al 100%, quindi abbiamo le prove che è così, e quindi il sospetto della tua domanda può essere che poi quando ci sono gli incentivi sfumi la bolla, certo, ha un fondamento. Certo. Francesca da Roma ci fa notare: carissimi, ma fate attenzione, Renzi ha detto il giorno e il mese, ma non l'anno. Grazie Franci. Francesca effettivamente ci pone un aspetto che, al quale non avevamo granché pensato. Ci chiama Marco dalla provincia di Mantova, buongiorno Marco. Ciao, buongiorno. Eccoci. Volevo dirvi, secondo me caro signor Renzi confonde i tweet con l'effettiva messa in produzione, diciamo, delle cose, e poi ha fatto secondo me delle cose talmente scandalose che se non avesse l'appoggio di tutta la stampa italiana, tipo il Job Act è una cosa scandalosa, secondo me la cancellazione dell'articolo 18, io sono un imprenditore, ma se fossi un operaio, altro che in piazza sarei andato, gli avrei dato fuoco a questa gente qua. Beh, adesso ha dato fuoco, no, dai. Ma diciamolo come battuta, Marco. A prenderli a calci nel culo questa gente qua. A parte che quelli di sinistra, perdonatemi la volgarità, ma fai prima a piantarglielo nel culo che in testa. Perché se voti ancora PD, lei è un fine e un dotto, lei è un dotto editorialista, Marco. Vabbè, prosegua, dai. No, però con tutto quello che gli hanno fatto votano ancora PD, allora ce lo meritiamo, perché cioè, ragazzi, migliaia di anni, no, dico, decine di anni di lotte sindacali per avere i propri diritti, e questo qua glieli cancella in 5 minuti. Se l'avesse fatto Berlusconi ci sarebbero state le piazze. Avesse fatto Berlusconi, questa frase è una frase, se l'avesse fatto Berlusconi, che abbiamo sentito spesso anche da persone di sinistra ultimamente. Ci sarebbe stata la rivoluzione, la raccolta di firme, gli intellettuali coordinati, le trasmissioni televisive sprezzanti, l'appello ai tribunali internazionali, questo non c'è dubbio. Quanti ne ha portati in piazza Cofferati quando si parlava dell'articolo 18? Noi siamo a un più modesta candidatura di Rossi, presentato Scanca, che dice sono alternativo di sinistra, non è lo stesso livello di risposta, diciamo così. Anche comunque, se Berlusconi è diventato vegetariano. Questa è la notizia del giorno, signori, perché noi stiamo parlando di Italia, di paese, eccetera. Ma Berlusconi che diventa vegetariano. Vegetariano. Lo scrive Tommaso Labate sul Corriere della perché Sera. Perché pare che la Pascal abbia preso sul serio quando lui ha detto non toccherò più carne. Lui aveva in mente un'altra cosa. Aveva in mente un'altra cosa. E d'ora in poi deve mangiare solo brodini vegetali, capisci? Ma no, guarda che il vegetarianesimo è una ma scelta. Ma perché la molti sanzione fanno per questa storia dei fratelli Zappacosta che tu avrai letto sicuramente? Sì, sì, sì. Allora ci sono i fratelli Zappacosta che si sono avvicinati Andrea, con questa lui, Luca. Azzurra Italia. Si Azzurra sono avvicinati Italia. A Forza Italia. Pare che però è giovanile di tanti bei giovani entusiasti, molto bei però. Molto bei. Hanno portato anche una bella ventenne. E pare che questa bella ventenne sia un po' l'ennesima, si può dire, pietra dello scandalo o di litigio ad Arcore, perché pare che Berlusconi, così racconta il Fatto Quotidiano, se ne sia un po' invaghito. Gli Zappacosta fratelli, prima di diventare vegetariano, se quando indugeva nella carne. Ma come dai, è così. Tant'è che prima la Pascale si incassa, la Rossi allora dice ai due fratelli non siete più ammessi alle attività politiche. Sì. E adesso loro infatti abbandonano Forza Italia. Lasciando la Pulsella, che oramai è diventata una cavolina di Bruxelles, è diventata vegetariana, un pezzo di verdura anche lei. Dicono sia successo questo, insomma Berlusconi, cosa possiamo dire, c'è un po' ricascato. Ma l'eterno ritorno, l'eterno ritorno. Cioè. Del resto, cari fratelli Zappacosta, se ogni uomo ha un prezzo, fatevi dire che voi siete nel reparto saldi. Ecco, questo è il punto più o meno. Salutiamo Francesco che ci chiama da Vicenza. Quanto diamo a Renzi, caro Francesco? Buongiorno. Volevo chiedere appunto, conferma il preside Giannino, dei voti che vorrei dare a Renzi. In italiano sicuramente 10, perché capacità narrativa, capacità fabulativa di raccontare le cose, sicuramente 10. Matematica è un po' zoppica, nel senso che secondo me conosce le formule, però le applica male. Qualche volta in certi compiti i risultati non erano esattamente quelli, sei e mezzo. No, io direi 5 e mezzo. So che sta andando a ripetizione il professor Padoan, però ha bisogno ancora di essere 5 e mezzo. Vabbè, dai, religione, abbiamo già detto Giannino prima il voto. Esatto. In storia, ecco lì, questo è un caso strano, perché secondo me lui la storia la conosce bene, specialmente quella del più 20 anni. Bene. Però tenderebbe a non imparare dagli errori della storia e magari anche a riproporre certe operazioni, certe modalità, e quindi diciamo così che è molto simile al suo predecessore. In geometria invece qui è molto bravo, riesce a fare a costruire dei quadrilateri o dei poligoni, riesce sempre a coinvolgere anche dal punto di vista dei vari anche altri partiti, persone, e quindi far finta che sia una certa figura, in realtà ci sono molti angoli, molti lati. Sì. Vabbè, insomma, la pagella così è completa. In effetti, con Verdini ha fatto un icosaedro più o meno. Va bene, la ringraziamo Francesco. Ovviamente devo dire che chiamano soprattutto, ci sono tanti i critici, no? Ci scrivono anche i critici, vabbè, ma è bello così, insomma, anche criticare. No, però, anche i critici, quasi sono vorrei critici. Dire. Però, caro Oscar, la vera notizia insieme al Silvio Vegetariano è che hanno calcolato quanto costano cani e gatti. Si spende circa 800 euro l'anno per un gatto e 1800 euro per un cane, quindi 800 euro per è vero. 800 per Lolà, Raguerto, 8 per 5, 40, 4000 euro l'anno. È verissimo, non posso dire di per no. I gatti. Ohimè. Intanto però, tu adesso fai tanto la battuta su questo, ma però. Su queste pensionucce intoccabili che costano oltre 1.100.000.000 l'anno, sì. 30.000 pensionucci di Camera, Senato, Regione Sicilia che batte tutto. Regione come Sicilia è fantastico. Regione Sicilia ne ha 16.000 da sole, rispetto a se sommate tutte quelle di ex deputati e senatori, ex dipendenti di Camera e Senato, arrivano a malapena 9.600. e invece la Sicilia arriva da solo a 16.000. Ecco, 30.000 pensionati d'oro, di cui non si sa nulla. Dovrebbero per legge comunicare l'autodichia, l'autonomia speciale, capito? E tu, guarda quei 29 giudici costituzionali da soli quanti soldi prendono. Guarda quei oltre 200.000 euro. Guarda che roba, guarda che roba. Cioè, delle cose. E che faresti tu? E che si può fare? Io sostengo che l'intoccabilità, mi piace per il signor avvocato Panitz, ex deputato che adesso assiste, io sono dell'idea che questa roba va toccata e ridotta come le pensioni di tutti gli altri italiani, punto. Tutto un regime moltiplicativo di privilegio rispetto farlo? Ai contributi. Cioè, perché se c'è veramente l'autodichia, come lo fai? Cioè, non è che fai un colpo, non è che entri al Senato e entri alla cassa e porti via i soldi. No, questi sono i decreti dei primi 10 giorni di un governo ideale. Tutte le fonti normative che affermano l'autodichia, cioè il fatto che gli organi di rilevanza costituzionale o quelli che hanno autonomia speciale non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti, le loro pensioni, dei dipendenti eccetera, non sono soggetti alle regole generali delle pensioni, sono abolite. Ripartiamo da qui, dai, è una riflessione interessante, magari nei prossimi giorni la sviluppiamo, no? Perché è impressionante. No, anche perché dopo la pubblicità, invece, Oscar, noi avremo ospite un ex primario del Niguarda. Si chiama Mario Cirincione. Pensate che lui nel 2006 aveva denunciato dieci anni fa tutto quello che è successo nell'ultimo scandalo della regione Lombardia, della presunte tangenti, no? Sulla dentistica, la zarina Canegrati e così. Lui aveva già denunciato tutto, col risultato che non è successo niente. Zero. Ce lo racconterà tra poco. State con noi. Allora, caro Oscar, alle 8:40 minuti. Abbiamo un responso. Sì, che quella del Silvio vegetariano ha colpito un po' con la classica battuta. Non è la classica battuta, no, è un'anamnesi seria. I nostri ascoltatori. Basta carne. E quindi? Solo patata. Ma vuol dire conoscere bene le persone di cui si parla. Silvio Berlusconi vegetariano. Vabbè, ma qui Oscar dobbiamo parlare di una cosa molto seria, perché è l'ennesimo presunto scandalo. Dobbiamo usare ovviamente sempre queste terminologie, perché ci saranno processi e bisognerà vedere. Però, insomma, per dirlo, l'intero Stato Maggiore della Lega, che le prove sono schiaccianti. Lo stesso governatore Maroni ha detto le prove sembrano schiaccianti anche nei confronti del leghista Rizzi, che è stato arrestato. Insomma, presunte tangenti nella sanità lombarda, soprattutto nel campo della odontotecnica. I servizi pubblici delle aziende sanitarie ospedaliere, che però avevano delle gare perché venivano poi affidate in gestione a privati, e le gare le vinceva sempre questa Dental Service. Esatto. Dental Service. Allora, con noi c'è un ex primario di chirurgia maxillofacciale a Niguarda di Milano, il professor Mario Cirincione, che oggi è in pensione. Ringraziamo di essere con noi, professor Cirincione. Buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno a tutti i presenti. Anche perché lei ha denunciato quello che poi di fatto è venuto fuori già nell'allora quando, professore? Ma siamo a cavallo tra il 2005 e il 2006. Beh, attenzione, io non denunciai corruttela, perché non ne avevo notizia. No, lei denunciò casi medici. Denunciai tanti piccoli casi, veramente in alcuni casi piccoli, poche decine. Io non avevo il controllo di questo outsourcing. L'aveva l'amministrazione, addirittura era stato esautorato da questo controllo. Cioè, lei da primario ha raccontato che arrivavano arrivavano dei pazienti a cui venivano fatte delle proposte di lavoro che in alcuni casi erano addirittura dannose. Proposte di lavoro intende come interventi dentali? Sì, interventi, erano prevalentemente interventi di odontoiatria. Ce n'erano in alcuni casi erano interventi inutili, e in altri casi addirittura dannosi, come dicevo. Piccoli casi, attenzione, poche cose. Lei raccontava per esempio di persone con la dentatura perfettamente sana, ai quali veniva detto dovete fare... Io ho avuto modo di vedere una paziente, però era sintomatico, insomma, una malattia si valuta attraverso sintomi anche molto piccoli, molto sfumati. E allora immediatamente li raccolsi le radiografie, i referti, tutto quello, addirittura le fotografie, alcuni pazienti li ho fotografati e li ho portati alla direzione della mia azienda, come era mio dovere. Sì. E non successe nulla, insomma, non si fece nulla. E poi dopo un po' di tempo tornai di nuovo alla carica e non si fece nulla. E allora cominciai a protocollare tutto quello che avevo da dire, cioè invece che dire ho messo per iscritto e ho passato tutto, l'ho fatto arrivare attraverso l'ufficio del protocollo in modo da lasciarne traccia. Ciccione, certo. Ma in quei casi che lei segnalò, a motivare questo tipo di cattivi interventi era ansia di poter far spendere di più per poi aggiudicarsene la quota, oppure derivante anche proprio da ignoranza tecnica, medico professionale? C'era un po' di negligenza, di imperizia e probabilmente tanto interesse. Le dico, erano pochi soldi, però sa come si dice in Sicilia, avrà capito che io sono siciliano, anche malgrado questo accento svedese. Si dice in Sicilia che niente più niente uccide l'asino, certo. Cioè mettendo insieme tanti piccoli bastoni sull'asino alla fine muore l'asino. Sì, perché erano lavori magari da 200-300 euro di allora, sì, però inutili. All'occhio di un esperto si capiva che c'era la volontà di lucrare su questi pazienti. C'è anche un caso, poverissimi. Certo, professor Ciniccione, c'è anche un caso invece drammatico che arrivò da lei di una paziente alla quale era stato diagnosticato un fungo e lei invece si accorse subito che era... Attenzione, qui si è fatta molto confusione sulla stampa. Questo è un caso che è esterno al mio reparto, caso privato. Io ho valutato la paziente e ho protestato semplicemente perché questo professionista era da noi, era nel service. Io ho detto che non era giusto che lavorasse con noi, ecco. È un caso assolutamente diverso. Ma i casi in cui si lucravano erano piccole cose, loro non tennero conto di nulla. Io mandai tante lettere protocollate, ne parlai anche in alcune riunioni di dipartimento, ma sa, la gente aveva paura, devo dire, aveva paura a parlare contro l'amministrazione. Sì. Perché l'amministrazione, i dirigenti dell'amministrazione rispondevano alla politica ed erano di nomina politica. I dirigenti, sì, si sa, sono di nomina politica. E alla fine, insomma, i rapporti si guastarono, io stavo male anche perché facevo un lavoro che necessitava di tranquillità, insomma, la chirurgia necessita di uno stato d'animo sereno. E, insomma, i miei rapporti con l'amministrazione si guastarono, allora ad un certo punto io misi tutto per iscritto in una bellissima lettera in cui citavo tutto e pretendevo che questa lettera venisse girata all'autorità, anche alla giustizia. Ecco, appunto, perché lei a quel punto è andato in procura a denunciare. No, un momento, questa lettera non venne girata all'autorità giudiziaria, ma venne girata alla controparte, la mia lettera. Controparte. Io lo ritengo molto offensivo, perché io come funzionario pubblico avevo il dovere, vero, di denunciare le malefatte e loro avevano il dovere a loro volta di denunciare, di fare indagini. Invece la lettera fu girata alla controparte e la controparte minacciò querele contro di me. Ovviamente stiamo parlando di questa dental service che lei si è ritrovato a leggere sui giornali. Sì, uno dei professionisti di lì dentro si ritenne offeso dalle mie denunce, dalle mie osservazioni. Io insistetti ancora e loro mi dissero: beh, allora vacci tu in procura, ma così gettata lì. E io ci sono andato sul serio. Sono andato prima dai NAS, quindi i carabinieri. Sì, questa lettera è agli atti dell'ordinanza attuale. È abbastanza incredibile, però si è spiegato perché dieci anni dopo, cioè perché per 10 anni anche le autorità ci ha spiegato che c'è stato un tappo, ma poi la procura non ha fatto niente, erano delle piccole cose sintomatiche, come dico, e probabilmente sì, vennero giudicate dei casi di imperizia, di negligenza, di piccola attività lucrativa. Però guardi che la faccenda non rimase a dormire per questi 10 anni, perché nel 2008, per esempio, venne ripresa dall'Espresso. Sì. Noi infatti abbiamo trovato un articolo di Peter Gomez che ne parlò. Ma è il 2008, professor Ciniccione. Loro facevano un'indagine su CL, sul dominio di CL negli ospedali, vennero anche nel mio ospedale. Però, professore, mi scusi, questo articolo dalla parte buona. Certo, però scusi, lei nel 2006 ha messo tutto nero su bianco, nel 2008 ne scrive Peter Gomez, passati 6 anni. In quell'occasione mi chiamarono di nuovo in AS. E poi sono passati 8 anni. Mi chiamarono ancora molto misteriosamente i carabinieri intorno al 2014, in febbraio del 2014, ma già l'inchiesta evidentemente era quella attuale. Loro non mi fecero capire nulla, però devo dire probabilmente la mia denuncia è rimasta sopita, però a disposizione. Sopita, ecco. Oscar, no, è troncare, sopire, Manzoni, l'eterno Manzoni che ci ricordava, no? Il governo spagnolo in Italia, sopire, troncare, troncare, no, sopire. Ma ho come il sospetto, cioè, la cosa che mi coglie un po' imbarazzato di tutto questo racconto, mettendomi dalla parte del cittadino, mi sembra, professor Cerincione, che laddove poi si è arrivato a toccare i gangli della politica, gli appalti, le presunte tangenti, si è intervenuti, finché si trattava di interventi a 200-300 euro su dei poveri cristi, perché questo era la risposta, come alla fine della tua trasmissione prima, è chi se ne frega, esatto, cioè questo è no? Sì, probabilmente così. Devo dire una cosa, guardi, io fin dall'origine ero contrario a questo outsourcing, a questa esternalizzazione di un servizio, per due ragioni molto semplici. Primo, perché l'ospedale l'avrebbe potuto fare direttamente, gestire direttamente, cioè gestire una solvenza direttamente si fa, quindi si poteva fare anche con l'odontoiatria. Io avevo gli uomini che avrebbero potuto farlo, erano i frequentatori a gratis del mio reparto, che avrebbero potuto fermarsi nel pomeriggio, di sabato, di notte, a lavorare per i pazienti nel regime di solvenza, fare delle prestazioni in solvenza, e l'ospedale le avrebbe incassati questi soldi direttamente. E poi ero contrario, e lo sono tuttora ancora, perché penso che la salute pubblica non si può dare in appalto, non si può dare in outsourcing, e l'odontoiatria, lei lo sa, in bocca ci sono anche i cancri, ci sono malattie serie, no, però c'è, cioè, no, no, adesso sistemiche, quindi non confondiamo, ma come non si può, ma non è vero, cioè, mi scusi, dottore, io ho pieno rispetto per la sua professionalità, si può benissimo dare in gestione ai privati, il problema è che gli standard, che hanno ottimi standard, come sa meglio di me chi lavora extra menia, chi lavora, cioè non è questo il punto. Il punto però è che bisogna essere rigorosissimi. Stiamo parlando di ospedali, attenzione. Anch'io, no, mi scusi, siccome conosci meglio di me, ci sono ospedali privati di eccellenza assoluta, ma non è questo il punto. Il problema è che sia nelle regole che presiedono all'affidamento, quindi alle gare, sia negli standard seguiti, quelli di cui parlava lei quando constatava i tipi di lavori fatti, lì bisogna essere rigorosissimi, cioè è chiaro. Qui invece siamo in presenza di un mercato drogato dal fatto che c'era una signora abituata a strapagare i politici, vinceva sempre lei, anzi quando altri vincevano questa la gara l'accusa, misteriosamente gli altri sparivano e subentrava lei. Ma tra l'altro guarda, il professore ci chiama Gianni da Firenze, che mi dicono essere un odontotecnico, e vuole dirci qualcosa su questa storia che avrà letto sui giornali e sta ascoltando dal professor Cerincione. Gianni, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti e un abbraccio a Oscar Giannino, numero uno. Allora, le volevo dire, io sono un odontotecnico, titolare di laboratorio odontotecnico, con la mia non è una telefonata di denuncia, perché io sinceramente a Firenze, in Toscana, non ho da fare una denuncia specifica. Io le voglio dire, vi voglio mettere al corrente della nostra esperienza. Noi 10 anni fa abbiamo costituito un consorzio di 12 laboratori, in quanto la regione Toscana sembrava che facesse un discorso un po' di qualità, finalmente, nelle ASL, cioè dare un buon prodotto al cittadino. Abbiamo costruito questo consorzio che non è mai riuscito a beccare un'ASL, abbiamo fatto da anni gare d'appalto, perché alla base è il sistema che non funziona. Ci siamo chiesti come mai l'80%, in Inghilterra è tutto pubblico, ma anche in Germania l'80% si servono delle strutture pubbliche. Perché in Italia c'è una lobby che si chiamano i dentisti, che hanno tutto l'interesse che questo prodotto finale sia di basso livello. Perché il cittadino oggi alle ASL, in Tramoenia, ha un prodotto pessimo, perché ti vengono pagati alle ASL quando fai le gare d'appalto. Vi faccio un esempio: una ceramica. Noi avevamo fatto un costo di quanto ci costava a noi effettivamente arrivare al prodotto finale, era, faccia conto, di 95 euro. La gara d'appalto l'ha beccato, l'ha vinto a 70 euro, 75 euro, non ricordo. Vabbè. Come si fa a dare un buon prodotto in bocca per il paziente? No, ma è chiaro, lei ci racconta una storia anche... Ecco perché alla fine le gare finiscono aggiudicarsi in tanti casi chi corrompe, perché non deve rientrare con il prezzo di aggiudicazione del servizio, questo è il motivo. Comunque, professor Cerincione, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Lei è uno di quegli italiani che poi fanno il proprio dovere di... dovere, ma alla fine si diventa eroi civili inascoltati, questo sì. La ringraziamo, Mario Cerincione. C'è un contest di basta, giusto per chiudere? Perché continuano i Così nostri basta, la mia basta. Risposta è 2 anni di Renzi. Vai. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Sofferto. Basta. Sofferto. Basta al ragù. Basta al pomodoro e basta ai fagioli. Questo è scritto al PD. Va bene, va bene. A domani. A domani.